Ecco. Ave Maria a tutti, questa serata sarà una grande serata perché staremo in compagnia del più grande profeta dell'Antico Testamento, che è il primo e il più grande di tutti, che è il grandissimo Elia. Ecco, la storia di Elia è una storia davvero edificante, oltre che avvincente. E per certi tratti e per certi aspetti anche molto umana, vedremo che anche il grande Elia, un ciclone, un eroe, un campione della fede monoteistica che ha difeso a spada tratta contro tutto e contro tutti, avrà i suoi momenti, insomma, difficili, avrà le sue prove, avrà i suoi momenti di tribolazione, momenti di debolezza. Quindi anche i grandi eroi, i grandi campioni della fede sono in qualche modo vicino a noi. Del profeta Elia si parla nel primo libro dei Re. Vi ricordate che la volta scorsa abbiamo lasciato proprio il primo libro dei Re con la morte di Salomone. Poi c'è un intermezzo perché Elia vive nel IX secolo, adesso poi lo vedremo nelle note biografiche, muore intorno circa all'850. Poco dopo la morte del re Acab, che vedremo essere molto coinvolto nella storia di Elia. E praticamente la sua è stato il primo profeta ed è stato un grandissimo, come vi accennavo, difensore del monoteismo giudaico. Tenete presente, vi ricordate la volta scorsa, che subito dopo la morte di Salomone il regno viene diviso in due. Quindi Elia, il regno di Israele, la parte nord della Palestina, il regno di Giuda, la parte sud. Elia predica e si muove nella parte nord di Israele. E tra la morte di Salomone e l'avvento di Elia ci passano una trentina d'anni, perché Elia non sappiamo nulla di preciso, cioè nasce in, potremmo dire, però non prendete per oro colato, intorno al 900 circa avanti Cristo e muore circa intorno all'850 avanti Cristo, ma è molto circa, insomma, quindi muore, poi non è del tutto esatto, perché vedremo che secondo la Sacra Scrittura Elia non è morto, è stato assunto al cielo attraverso un carro di fuoco. Ecco, il suo ministero, come vi accennavo, è avvincente e davvero portentoso per tanti aspetti, per cui rapidamente adesso ci accingiamo a vederne i tratti salienti. Non è una storia lunga, ma è una storia intensa. Allora, Elia compare al capitolo 17 del libro dei Re in maniera, come dire, quasi lapidaria, estemporanea. Adesso lo leggeremo vari stralci, insomma, perché sono tutti quanti episodi un po' lunghi ma molto istruttivi. Poi, se non dovessimo riuscire a terminare entro questa sera, pazienza, insomma, ci aggiorneremo la prossima volta insieme al suo successore Eliseo. Allora, Elia, il ciclo di Elia compare al capitolo, come accennavo, 17 del primo libro dei Re. Un attimo, qui c'è qualche piccolo problema di niente di grave. Ecco, adesso andiamo meglio. Ecco. Ho dimenticato, tra le notazioni biografiche, Elia è il patrono per antonomasia e l'ispiratore di un grandissimo ordine religioso presente nella Chiesa Cattolica, che sono i Carmelitani, che hanno in Elia il prototipo, il modello, perché vedremo che Elia è anche non è soltanto il santo e il guerriero, come abbiamo, ma è anche un mistico, come vedremo, ed immagine della vita monastica per la sua grandissima unione con Dio che ha cercato e che ha trovato. Lo vedremo soprattutto nell'esperienza del Monte Horeb. Quindi l'ordine carmelitano, per chi non lo sapesse, è stato fondato da sette, chiamiamoli frati, anche se non erano frati, che si sono riuniti sul Monte Carmelo ispira il Monte Carmelo e vedremo, ci sono due monti nella vita di Elia, il Monte Carmelo dove ha affrontato la sfida contro i profeti di Baal vincendola, e il Monte Horeb dove ha avuto la sua esperienza mistica e il suo contatto, diciamo, tu per tu, cuore a cuore con la trascendenza, con Dio, dopo le persecuzioni di Acab, soprattutto spinto dall'empissima, oggi vedremo un'altra donnaccia oggi, che è Jezabel, la moglie di Acab, proprio l'immagine del male fatto femmina. Quindi, ecco, comunque compare Elia improvvisamente nel primo libro dei re, così senza presentazioni, senza introduzioni, all'improvviso. Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Gala, disse ad Acab, Acab era il re di Israele in carica, che è morto nell'853, quindi avanti Cristo, tanto per contestualizzare un pochino dal punto di vista storico. E gli dice, Acab chiaramente non era l'esempio di un re santo, perché si era sposato una donnaccia che l'aveva attratto, vi ricordate quello che ha cominciato a fare Salomone, quindi essere attratto dalle donne verso i culti stranieri, poi è stato una costante di tantissimi re di Israele, ecco, quindi è stato l'inizio della fine, ecco, il regno del nord, lo vedremo forse la prossima volta, poi sarebbe stato completamente distrutto dall'invasione degli Assiri, è completamente caduto, se non ricordo male, nel 731 a.C., quindi 100 anni circa dopo la morte di Elia. Per la vita del Signore Dio di Israele, la cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. Quindi, castigo di Dio, siccità. Invece a lui fu rivolta questa parola del Signore, vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit che è a oriente del Giordano, berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore, andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera, egli beveva al torrente. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore. Ecco, qui riconoscerete, se vi ricordate il Vangelo, che questo episodio Gesù lo cita nella sua prima predica nella sinagoga di Nazareth. È questo l'episodio che cita. Lo leggiamo adesso. Alzati, va, Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine ad una vedova di sostenerti. Sarepta di Sidone era territorio pagano, non era territorio israelitico. Questa era una donna non israelitica, quindi non avente la fede in Yahweh, unico e solo vero Dio. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse, prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò, per favore prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose, per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Elia le disse, non temere, va a fare come hai detto, prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché così dice il Signore Dio di Israele, la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Primo evento straordinario. Poi ce n'è un altro, perché il figlio della vedova a un certo punto muore. In seguito accadde che il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia si aggravò tanto che egli cessò di respirare. Allora le disse Elia, che cosa c'è tra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? Elia le disse, dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore, Signore mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita tanto da farle morire il figlio? Si distese tre volte sul bambino e invocò il Signore, Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò la voce di Elia, La vita del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa, dalla stanza superiore lo consegnò alla madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. La donna disse a Elia: ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore è nella tua bocca è verità. Allora, avete riconosciuto, questo è il primo episodio narrato dalla Bibbia di una risurrezione in senso stretto, operato per intercessione di un profeta di Dio. L'episodio è identico a quello che Gesù fa nel Vangelo quando guarisce, quando risuscita il figlio della vedova di Nain, tale e quale, appiccicato. Ecco. E l'episodio della vedova di Sarepta in Sidone è narrato da Gesù quando a Nazareth predica dicendo: oggi la parola, legge il passo del profeta Isaia, lo spirito del Signore è su di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, e poi dice: oggi questa parola si è adempiuta, cioè sono io l'inviato di Dio, il Messia, per proclamare la salvezza e per liberare i prigionieri, eccetera, eccetera. E sapete che Bianchi Nazare dice: chi sei tu? Ma questo è il figlio del falegname. Chi è questo? E Gesù risponde: nessuno è profeta in patria. Parole sante. Dice. E poi cita questo episodio, dice: c'erano molte vedove ai tempi di Elia, ma a chi fu mandato Elia? Nessuna, se non una vedova in Sarepta di Sidone, che è una pagana. Quindi l'insegnamento di questo brano è che purtroppo, e questo è verissimo, a volte le persone che sono lontane superano quelle che sono vicine. Per la fede grande che c'ha questa qui, più grande di... guardate, questo è un fatto costante, deve farci sempre tremare, perché noi che siamo un pochino più vicini dobbiamo sempre essere un po' edificati da questi racconti, da questi episodi. Perché questa fa una cosa assurda, perché Elia gli dice, gli era rimasto, stavano in carestia, senza acqua, senza pioggia, gli era rimasto un pugno di farina e un orcio d'olio. Ti ha detto: adesso mangiamo io e mio figlio, dopo di che sta finita e moriremo. Prima portamela a me. Cioè, io voglio vedere quante di voi mamme chiocce esaurite, ecco, avendo rimaste vedove e madri di un figlio unico, avrebbero fatto una cosa del genere. Quindi, era fatta. Quindi, questo è un insegnamento enorme, perché applichiamolo subito in tante circostanze di vita, cioè guardate che veramente il nostro Signore Padre Eterno ci chiede sempre delle cose che umanamente parlando sono il contrario di quello che tante volte sarebbe l'umano buonsenso. Cioè, ma io non ho neanche una lira per Iana a fine del mese, come faccio a fare un altro figlio? Altri quattro ne devi fare, se vuoi la benedizione di Dio. Cioè, ma come? Se non ce la facciamo in tre, noi ce la facciamo in quattro, cinque e sei. Eh sì, è esattamente il contrario di quello che noi pensiamo. Non c'ho una lira, manco per me, e mo quello mi era pure il vetro, gli devo pure lasciare l'elemosina, va a lavorare che non ti posso lasciare niente, che devo pensare a me. Se fai così te finisce quello che... Quindi è un po' questa è un pochettino la logica evangelica, quella fatta proprio dal grande San Francesco. Ricordate quella preghiera semplice attribuita a lui, diceva a un certo punto: è dando che si riceve. È assurdo questo qui, perché quando uno dà qualcosa viene depauperato, cioè aveva qualcosa e dopo ha di meno. Ecco. Però soltanto se dai qualcosa e hai di meno avrai di più. Vi ricordate le parole di Gesù nel Vangelo: a chi ha sarà dato, sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quindi, a chi non ha proprio questo spirito di darsi e di dare. Quindi non dobbiamo avere paura, quindi questo per trarre qualche esperienza esistenziale. Vi ricordate come le parole che dice Gesù: chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta. Questa donna che era una pagana, vedete come lo chiama, uomo di Dio, si accorge che questo è un uomo di Dio e gli obbedisce, perché agli uomini di Dio bisogna obbedirgli, non si può stare a discutere e accordati. Se ti dice di fare una cosa che ti sembra strana, la fai lo stesso, ecco. Altrimenti non c'avrai la ricompensa del profeta. Secondo episodio molto importante, subito dopo, quindi ci sono, Elia compare, siccità, i fatti della vedova e la risurrezione del figlio. Al capitolo seguente vediamo già la situazione, che capiamo indirettamente la situazione che si era prodotta dopo neanche 80 anni che era morto Salomone. Costruito il Tempio di Gerusalemme, una delle sette meraviglie della terra, quindi adesso dovremmo aver reso un grandissimo culto a Yahweh, ha cominciato Salomone a essere indulgenti, ricordate la volta scorsa, con tutti gli dèi delle sue innumerevoli concubine, ha cominciato Salomone e siamo andati poi costantemente di male in peggio. Allora, c'è un prologo prima della contesa, che è un dialogo tra Elia e Acab, che leggiamo. Dopo molti giorni la parola del Signore fu rivolta a Elia, nell'anno terzo, quindi 3 anni di carestia. Va a presentarti ad Acab e io manderò la pioggia sulla faccia della terra. Elia andò a presentarsi ad Acab. A Samaria, tenete presente che Samaria era la capitale del regno del nord, quindi si trova nella parte settentrionale della Palestina. C'era una grande carestia. Acab convocò Abdia, che era il maggiordomo. Abdia temeva molto il Signore. Ecco. Quando Jezabele, moglie di Acab, uccideva i profeti del Signore, quindi, vedete che santa donna, Abdia aveva preso 100 profeti e ne aveva nascosti 50 alla volta in una caverna e aveva procurato loro pane e acqua. Acab disse ad Abdia: va nella regione verso tutte le sorgenti e tutti i torrenti, forse troveremo erba per tenere in vita cavalli e muli e non dovremo uccidere una parte del bestiame. Si divisero la zona da percorrere. Acab andò per una strada da solo e Abdia per un'altra da solo. Mentre Abdia era in cammino, ecco, fagli si incontro Elia. Quello lo riconobbe, cadde con la faccia a terra dicendo: sei proprio tu il mio signore Elia? Gli rispose: lo sono. Va a dire al tuo signore: c'è qui Elia. Tra parentesi, il nome Elia in ebraico, El significa Dio, Yah è il diminutivo di Yahweh, significa il nome Elia, che Dio è Yahweh, letteralmente. Quello disse: che male ho fatto perché tu consegni il tuo servo in mano ad Acab per farmi morire? Per la vita del Signore tuo Dio non esiste nazione e regno in cui il mio Signore non abbia mandato a cercarti. Se gli rispondevano: non c'è, egli faceva giurare la nazione e il regno di non averti trovato. Ora tu dici: va a dire al tuo Signore, c'è qui Elia. Appena sarò partito da te, lo Spirito del Signore ti porterà in un luogo a me ignoto. Se io vado a riferirlo ad Acab, egli non trovandoti mi ucciderà. Ora il tuo servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza. Non fu riferito forse al mio Signore ciò che ho fatto quando Jezabele uccideva i profeti del Signore? Come io nascosi 100 profeti, 50 alla volta in una caverna, e procurai loro pane e acqua. E ora tu comandi, va a dire al tuo Signore, c'è qui Elia? Egli mi ucciderà. Elia rispose: per la vita del Signore degli eserciti, alla cui presenza io sto, oggi stesso io mi presenterò a lui. Abdia andò incontro ad Acab e gli riferì la cosa. Acab si diresse verso Elia. Appena lo vide, Acab disse a Elia: sei tu colui che manda in rovina Israele? Perché gli dice così? Perché per la parola di Elia era venuta la carestia sulla terra. Quindi, castigo di Dio, oggi non si può parlare più di castighi di Dio, però la Bibbia ne parla, cose strane, ecco. E quindi Acab, anziché convertirsi, dice: è venuta la carestia perché io sto facendo l'empio insieme a quella sciagurata di mia moglie, se la prende col profeta che gli avrebbe mandato il castigo, come sempre accade. Egli rispose: non io mando in rovina Israele, ma piuttosto tu e la tua casa, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito i Baal. Tenete presente che Baal in ebraico significa Signore, lo stesso, e che Baal è il nome proprio di uno dei demoni più potenti dell'inferno, per chi non lo sapesse, insomma, uno di quelli che stanno nelle alte gerarchie, nel consiglio direttivo dei primi 6-7, insomma, di quelli che stanno lì giù. Perciò fa radunare tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo, insieme con i 450 profeti di Baal. Pensa a quanti erano, eh? e anche con i 400 profeti di Asera che mangiano alla tavola di Gezzabele, quindi 850 contro 1. Acab convoca tutti gli israeliti e raduna i profeti sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Vedete anche qui le parole di nostro Signore, prefigurate in figura. O con me o contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Nessuno può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure disprezzerà l'uno e si affezionerà all'altro. Non potete servire Dio e Mammona. Ecco. Mammona in ebraico o è simbolo del demone dell'avarizia o è simbolo del diavolo, punto e basta, perché è uno dei nomi, anche quello con cui venivano chiamati i nemici dell'umana salvezza. Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Quindi, vedete che la solitudine dei profeti del Signore è problema antico, perché Elia era solo, Mosè era solo, Gesù Cristo era solo, quindi sono sempre delle figure un po'... Va bene, Padre Pio era solo, andate sul sito e scaricate i video di Don Attilio Negrisolo, ce ne ho caricati 3, cose mai viste e mai sentite. Ma quello ne è stato testimone diretto, perché è stato attaccato alla sottana di Padre Pio 21 anni consecutivi, sa tutto di lui. E tra poco c'ho un pacco così, io non ci stanno tanti video, ci stanno caterve di MP3 con la testimonianza di questo qui. Quindi quando c'è veramente un uomo di Dio, ma uomo di Dio con la U e con la D maiuscola, l'esperienza di Elia è la norma. E si riproduce nel corso del tempo. Allora, ci vengono dati due giovenchi, la conoscete la storia? Essi ne scelgano uno, lo squartino e lo pongono sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio. Sapete che nell'Antico Testamento i sacrifici venivano offerti così: si uccideva un animale, dopodiché il sacrificio doveva essere consumato. Questo è vero anche nella nostra messa, anche del sacrificio incruento. Apriamo questa piccola parentesi: se io quando celebro la messa non faccio la comunione, la messa non è valida, cioè se faccio la comunione a tutti e io non faccio la comunione, la messa non c'è, perché la vittima che viene immolata sull'altare deve essere consumata, deve essere annientata. Per questo che la comunione del sacerdote è essenziale, non può un sacerdote non fare la comunione, mentre la comunione di un fedele non lo è. Che se non fa la comunione uno di voi, la messa è valida comunque e produce gli effetti che produce. Se non la faccio io, la messa non c'è, perché la vittima non è stata consumata. Ogni volta che si offre un sacrificio a Dio, la vittima deve essere consumata, e questo veniva fatto normalmente col fuoco. Tant'è vero che il sacrificio per antonomasia si chiama nell'Antico Testamento l'Olocausto, in cui la vittima veniva bruciata completamente. In altri sacrifici la vittima veniva bruciata soltanto in parte, e la rimanente parte, soprattutto delle cose commestibili, serviva come alimenti per i sacerdoti, perché venivano sacrificati nell'Antico Testamento gli animali. Allora lui dice: facciamo così, facciamo due sacrifici. Il Dio che esiste lo manda lui il fuoco a bruciare il sacrificio a testimonianza che ha gradito l'offerta e la vittima. Quindi così capite un attimo perché questo gesto. Allora, questi cominciano, prendono sto basto giovenco, lo squartano e cominciano a invocare dal mattino fino a mezzogiorno gridando: Baal, rispondici. Quelli ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Ma cercate di immaginare questa scena, che fa pure un po' ridere. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: ma gridate a gran voce, perché questo è un Dio. Può darsi che a quest'ora dorme. Comincia a dire, dice: è occupato. o è in affari o è in viaggio, questo è uno importante, c'è altro che Berlusconi, questo ti pare che sta a sentire a voi, cioè, adesso dovete invocarlo proprio, strillate più forte, perché cioè, prima che si degni di ascoltarvi, insomma forse dorme, perché è stanco con tutti quanti gli affari, è stato a fare il consiglio con Confalonieri, poi ha dovuto fare l'amministrazione della Fininvest, quindi sarà un po' stanca a quest'ora, dice, ma forse si sveglierà. Allora gridarono a gran voce, pensate questi cretini, no? E si fecero incisioni secondo il loro costume con spade e lance fino a bagnarsi tutti di sangue, vedete, riti satanici, queste sono cose che vengono fatte durante le messe nere, si fanno le incisioni, si tagliano perché deve essere versato il sangue, vabbè. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agivano, qui traduce da profeti, la traduzione nuova, ma la traduzione più migliore è da invasati, letteralmente, qui c'è, fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Allora Elia dice, va bene, fine del cinema, adesso facciamo un po' di cose serie, avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore, Israele sarà il tuo nome. Con le pietre resse un altare del Signore, eccetera. Vabbè, dispone la legna, lo squarta, eccetera. Dopodiché dice, riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna. Quindi, 4 anfore, non so se siete stati a Cana, avete visto le anfore delle nozze di Cana, erano 4 cose grosse così. Sai quanti litri d'acqua c'erano? Ed essi lo fecero, gli dissero, fatelo di nuovo, e ripetirono il gesto, disse ancora, fatelo per la terza volta, quindi lo annega dentro l'acqua. L'acqua scorreva intorno all'altare, eppure il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse, Signore, Dio di Abramo, Dio di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu, oh Signore, sei Dio, vedete, Elia, tu, Signore, sei Dio, Yahweh è Dio, Dio è Yahweh, e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore, consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando tutta l'acqua del canaletto. Ecco. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse, vedete il nome di Elia, il Signore è, ripete, Elia, Elia, il Signore è Dio, il Signore è Dio, sarebbe come se dicesse Elia 2 volte. Elia disse loro, questa a me mi piace tanto, sta cosa qua però non si può fare più, afferrate i profeti di Baal, non ne scampi neppure uno, li afferrarono, Elia li fece scendere al torrente Chison dove li ammazzò tutti, ha fatto necatombe. È arrivato il Nuovo Testamento e non si può fare più. Se non ogni tanto però qualche tentazione, va bene. Elia disse ad Acab, va a mangiare e a bere perché c'è già il rumore della pioggia torrenziale, fine della siccità, vedete? Acab andò a mangiare e a bere. Elia salì sulla cima del Carmelo, gettatosi a terra, pose la sua faccia fra le ginocchia. Quindi disse al suo servo, sali presto e guarda in direzione del mare. Quegli salì, guardò e disse, non c'è nulla. E gli disse, tornaci ancora per 7 volte. La settima volta riferì, ecco una nuvola, piccola come una mano d'uomo, sale dal mare. Elia gli disse, va a dire ad Acab, attacca i cavalli e scendi perché non ti trattenga la pioggia. Ad un tratto il cielo si schiunò per le nubi e per il vento vi fu una grande pioggia. Acab montò sul carro e si andò a Israele. La mano del Signore fu sopra Elia che si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab finché giunse a Israele. Di questo è l'episodio per antonomasia di Elia. Quindi Dio solo contro tutti lo difende e stermina i profeti di Baal. Questo accade sempre, questo qui, perché gli uomini di Dio sono da soli, però il Signore è con loro, quindi anche a prezzo di tante cose alla fine c'hanno sempre ragione loro. Costa parecchio, però c'hanno sempre ragione loro. Quindi questo diciamo che è la prima parte del ministero di Elia, che io l'ho chiamato in questa slide santo e guerriero, quindi un grande interprete, ecco. Poi abbiamo il mistico. Allora, subito al capitolo seguente, il 19, che succede? Questo ha sterminato tutti i profeti di Baal, ma questi erano amici di Zezabele. Allora Zezabele si arrabbia. Dice, che ha fatto questo? Mi ha ammazzato tutti i profeti. E ammazziamo lui. Ecco. Allora, andiamo a leggere il capitolo seguente, Acab riferì a Gezzabele tutto quello che lì aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Gezzabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. Vedete, è caruccia questa? Ecco. Ecco, a questo punto Elia ha paura, Elia è impaurito da una donnaccia, uno che aveva ammazzato 450 profeti, si alzò e se ne andò per salvarsi. Ecco, giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo. Io mi commuovo quando leggo queste cose, sono stati momenti della mia vita dove mi sono sentito esattamente come si sente Elia in questo momento, ripetendo proprio le stesse parole, tanti sono già stati. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: ora basta, o Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. È stanco, d'accordo, di essere da solo contro tutti. Ecco. Si coricò e si addormentò sotto la ginestra, ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse, ecco, la slide ve la faccio rivedere, che abbiamo qui. Vedete, Elia qui mangia il pane, vedete, stanco e abbattuto. Lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti, ed ancora qui torna il numero di 40 come per Mosè, fino al monte di Dio, l'Oreb. Ora voi sapete qual è il monte Oreb? Oreb è l'altro nome del monte Sinai, quindi è lo stesso monte dove Mosè ha ricevuto i 10 comandamenti. Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che cosa fai qui, Elia? Ecco un'altra cosa. Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, io sono rimasto da solo ed essi cercano di togliermi la vita. Qui c'è proprio tutto Elia. E queste parole, sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, sono il motto dell'ordine carmelitano. Se voi vedete il motto dell'ordine carmelitano, c'è stata una spada, uno scudo, e sottoscritto c'è stata zelo zelatus sum, che è la versione latina di queste parole. Lo zelo, sapete, è l'avere a cuore l'onore di Dio, quindi essere pronti a dare la vita purché Dio sia amato, onorato e servito. Questo è lo spirito di Elia e degli uomini di Dio. Tutti gli uomini di Dio sono arsi di zelo, e dinanzi a quello non hanno mai guardato in faccia a nessuno, in nome del santo zelo per il Signore. Gli disse: esci. Vedete, qui è proprio il Signore che gli va incontro. E fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. State attenti che tutte queste, i primi due fenomeni sono gli stessi, se andate a prendere Esodo 20, che accadono invece nella Teofania, con cui il Signore ratifica l'emissione dei 10 comandamenti: terremoti, folgori, vento, monte che trema. Quindi lì Dio si era manifestato come terribile. Adesso Elia c'ha bisogno, come dire, di altro. Quindi, ecco, il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco. Tutti i segni di roveto ardente, Mosè, no? Era, Dio era nel fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, lì era Dio. Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Adesso, se vi dovessi stare qui a dire tutti i commenti di San Giovanni della Croce su questi passi qui, questo è proprio un passo, questo brano qui, che è stato ultra commentato dagli autori di teologia mistica, cioè da coloro che hanno parlato delle esperienze soprannaturali di Dio e ne hanno parlato anche con cognizione di causa, quindi perché le hanno vissute, perché mentre di teologia normale ne può parlare chiunque, perché la teologia normale, più chiunque sia un pochino competente, oggi ne parlano fin troppi e a sproposito, ma la teologia normale, diciamo così, è accessibile da una ragione illuminata dalla fede, la teologia mistica no. Cioè, io ho letto le opere dei mistici, perché se qualcuno mi dica ha visto la Madonna, devo avere qualche criterio per capire se questo devo andare dallo psichiatra, se ha visto il demonio, oppure se forse ha visto la Madonna sul serio. Però delle esperienze mistiche in senso stretto ne può avere cognizione reale soltanto chi le ha vissute. Quindi sul commento di questa brezza leggera, su questa modalità particolare con cui Dio si manifesta, i tocchi che dà alle anime, eccetera, ne hanno scritto molto i mistici. La cosa importante è che qui Elia, pieno di zelo e comunque in un momento di fortissima prova che lo sta portando allo scoraggiamento, ha un'esperienza di Dio come presenza delicata che lo avvolge e che gli dà forza e coraggio, in maniera soave però, non in maniera violenta, diciamo così, e impetuosa. Viene a lui una voce che gli diceva: che cosa fai qui Elia? Egli rispose ancora: sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spade i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. E il Signore gli disse: su, ritorna sui tuoi passi, quindi continua a combattere. Verso il deserto di Damasco, giunto là ungerai Cazzael come re su Aram, poi ungerai Jehu figlio di Nimsi come re su Israele, ungerai Eliseo figlio di Safat di Abel Mecolà come profeta al tuo posto. Se uno scamperà la spada di Cazzael lo farà morire Jehu, se uno scamperà la spada di Jehu lo farà morire Eliseo. Io poi riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato. Anche questa è una grande rivelazione, perché Elia è rimasto da solo, sì, ma il Signore si riserva sempre una porzione, il piccolo resto, lo chiama il Nuovo Testamento, di eletti che rimangono fedeli. Questo è sempre successo, per cui anche nei periodi più bui della storia della Chiesa, voi pensate, questo ci dà un pochino di consolazione, perché oggi la Chiesa sta messa molto male, però ci sono stati periodi storici terribili, ecco, per esempio nel IV secolo, quando un prete matto, perché gli eretici erano tutti quanti preti, monaci e vescovi, tutti, quindi un prete matto che si chiamava Ario di Alessandria, è stata la prima grande eresia, quella che è stata, fatta al concilio di Nicea, da cui è uscito il credo che diciamo ogni domenica, si era messo in testa che Gesù non era Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, ma era il figlio di Dio, era una specie di demiurgo, perché ha studiato Platone, insomma, era una specie di essere intermediario, era meno di Dio, perché soltanto Dio, l'unico Dio, l'eterno, l'innascibile, eccetera, era più degli angeli, più degli uomini, ma stava un gradino di sotto alla divinità. Questa idea, che tra l'altro questo tenete presente che nei primi secoli il cristianesimo aveva attecchito, certo il Papa stava a Roma, però il cuore, diciamo, vitale del cristianesimo era nel Medio Oriente, quindi in aree profondamente sotto l'influsso del pensiero greco, e per i greci che seguivano Platone, eccetera, questa idea qui tutti gli andavano dietro, perché era perfettamente conforme a tutto quello che i filosofi greci avevano insegnato. E quindi praticamente sapete che in quasi questa cosa poi si è diffusa. Erano quasi tutti eretici, in quasi tutto l'impero, una minoranza assoluta di cristiani sono rimasti fedeli all'ortodossia. Al concilio di Nicea, se non ricordo male, sapete quanti vescovi c'erano, di tutti i vescovi? 50. E basta. E l'hanno fatto loro, col Papa. Hai capito? Quindi succedono queste cose, quindi non dobbiamo mai scandalizzarci, anche la Sacra Scrittura insieme con la storia è magistra vitae, maestra di vite, quindi non bisogna mai impressionarsi dinanzi a tante cose che si possono anche oggi constatare. Allora, a questo punto c'è la vocazione di Eliseo, breve trafiletto, anche questo episodio che richiama fortemente un brano evangelico. Guardate come Elia è veramente un... Allora, trova Eliseo, che cosa fa? Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12esimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Vi ricordate gli episodi del Vangelo, quando Gesù guarisce il cieco e quello lascia il mantello e lo segue? Oppure l'emorroissa che per essere guarita tocca il mantello di Gesù. Allora, il mantello è un indumento fondamentale, perché il mantello nella Sacra Scrittura indica un po' la funzione e l'identità della persona. Il cieco che si alza e lascia il mantello vuol dire che si lascia alle spalle ciò che non è più cieco, e non è più ciò che l'essere cieco simboleggia, una persona che non vede la fede, è un'altra persona, quindi il mantello si butta, non mi appartiene più. Invece tocco il mantello di Gesù, che Gesù è il figlio di Dio, guarisco, perché toccare il mantello è come se toccassi lui. Quando Elia butta il profeta, butta il mantello addosso a Eliseo, vuol dire: chi sono io, uomo di Dio e profeta? Tu sarai uomo di Dio e profeta. E lui capisce subito. Quello lasciò i buoi e corse dietro Elia dicendogli: lascia i buoi, andrò a baciare mio padre e mia madre e poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai cosa ho fatto per te. Questo passo Gesù lo riprende nel Nuovo Testamento. Vi ricordate quell'episodio del Vangelo di Luca, quando chiama quei tre discepoli? Uno gli dice: ti seguirò dovunque tu vai. Gesù risponde: le volpi hanno le loro rotane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Un altro gli dice: ti seguirò, ma prima fammi andare a congedare da mio padre e da mia madre, lascia che i morti seppelliscano loro, non ce lo manda, tu vai e annunzi il regno di Dio. Quindi vedete la differenza. Dice: vado a salutare i miei, va e torna. Quando arrivi a Gesù non ci vai a salutare i tuoi, parti direttamente. C'è uno scarto, diciamo così, ancora più grande. E più tempo passa, ragazzi, ragazze, più capisco quanto sono vere queste parole di Gesù. Quando il Signore chiama bisogna partire, e non bisogna stare appresso a troppi legami, perché se uno indugia non parte più. Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise, con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Quindi Elia si trova questo successore, poi vedremo la prossima volta la storia di Elisea e di Eliseo. Allora, dopo queste storie, ecco, abbiamo gli ultimi giorni di Elia, andiamo rapidamente. C'è un episodio bruttissimo dove ancora il protagonista è Jezabele, la figlia di Nabot. Adesso questo è un capitolo molto lungo, forse non è il caso di leggerlo, facciamo troppo tardi poi, però ve lo sintetizzo e magari leggiamo poi qualche piccolo stralcio. Ah, sto Nabot era uno che c'aveva... Il padre di questo Nabot c'aveva una vigna. Acab gli piaceva tanto sta vigna. E propone, dice: senti un po', vendimi la vigna, te la pago bene. Nabot, rifacciamo come vi ricordate Uria, era devoto al papà, dice: no, dice, guarda, mi può pure da 100 milioni di euro, ma questa è la vigna di mio padre, la vigna della casa paterna, quindi non te la do. E Acab si urta questa cosa qua, una tragedia, si mette a piangere, diventa triste. A Jezabele, ecco, dice: che è successo? Ah, Nacob non ti vuole dare la Nabot, non ti vuole dare la vigna. Ma ci penso, che problema c'è? Ecco. Adesso andiamo a leggere un pezzettino, così andiamo a vedere cosa inventa Jezabele per dare la vigna, eh? Allora, Perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e non vuoi mangiare? Ma perché ho detto a Nabot, cedimi la tua vigna, se preferisci ti darò un'altra vigna, ti risposto, non ti cederò la mia vigna. Ma non ti preoccupare, alzati e mangia, il tuo cuore giuisca, te la farò avere io la vigna di Nabot. Allora, che cosa fa questa? Scrive una bella lettera con il nome di Acab, la sigilla con il suo sigillo, la manda in giro e scrive in queste lettere: bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino, hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia. E così fanno, li possiamo tranquillamente saltare. Appena Gezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna di Nabot di Israel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Qualcosa di simile di quello che è successo con Uria, no? Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Israel a prenderne possesso. Ora, prima c'era Nathan, qui c'è sorpresa. Chi verrà adesso a fare una bella predica? Acab? Elia? Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, nella vigna di Acab, di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Quindi, pronto? Adesso arriva il castigo, eh? Gli dirai anche: così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. D'accordo? Acab disse a Elia: ah, mi hai dunque trovato, o mio nemico. Quello soggiunse: ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Allora ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Gezabele parla il Signore dicendo: i cani divoreranno Gezabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare le mani agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Vedete le donne, sì. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Ora, Acab fa qualcosa di simile a quello che ha fatto Davide. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò, si coricava con il sacco e camminava a testa bassa, a differenza della moglie. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Disse allora il Signore Elia. Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita, farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Vedete quanto è importante, quando arrivano le sentenze da parte di nostro Signore, anziché arrabbiarsi, ecco, mettersi con la gola tra le gambe, stare buoni, tranquilli e muti, e sopportare tranquillamente quello che il Signore ci manda. Adesso andiamo a vedere la conclusione, che è il rapimento di Elia al cielo. Che si trova più avanti nel secondo libro di dei re, prima c'è un altro piccolo capitolo carino, il secondo libro dei re, e c'è ancora Elia che fa l'ultima prodezza prima di morire. Che belle che sono queste cose qua, le leggiamo. Dopo la morte di Acab, quindi sono pochi anni ancora che campa Elia, Moab si ribellò a Israele. Acazia cadde dalla finestra della stanza superiore a Samaria e rimase ferito. Allora inviò messaggeri con quest'ordine: andate e interrogate Baal-Zebub. Belzebù, ancora, questo è un altro principe dei demoni. Vedete come tutti quanti i culti idolatrici erano tutti quanti culti resi al demonio, anche se non lo sapevano. Se chi ha visto di voi, io non l'ho visto, ma mi avevano descritto Apocalipto di Mel Gibson, tutte quelle follie, sacrifici umani che facevano, sono tutti quanti culti resi al demonio. Cioè, quando uno, il culmine del culto al demonio è il sacrificio umano, e li fanno tuttora oggi. Va bene. Andare a interrogare Baal-Zebub, quindi dio di Ecron, per sapere se sopravviverò a questa mia infermità. E arriva il grillo parlante, però. L'angelo del Signore disse a Elia il Tisbita: va incontro ai messaggeri del re di Samaria e di loro: ma non c'è forse un dio in Israele? Perché dobbiate andare a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron. Pertanto così dice il Signore: dal letto in cui sei salito non scenderai, ma certamente morirai. Vedete come sono i profeti, no? Ed Elia se ne andò. I messaggeri tornarono dal re, che domandò loro: perché siete tornati? Gli dissero: ma ci è venuto incontro un uomo che ci ha detto: tornate dal re che vi ha inviato e ditegli: così dice il Signore, non c'è forse un Dio di Israele, perché tu debba mandare a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron? Pertanto dal letto in cui sei salito non scenderai, ma certamente morirai. Domandò loro: sentite un po', ma qual era l'aspetto dell'uomo che è salito incontro a voi e vi ha detto simili parole? Risposero: era un uomo coperto di peli, una cintura di cuoio gli cingeva i fianchi. Abbastanza ascetico anche Elia. E gli disse: quello è Elia, il Tisbita. Allora, adesso preparatevi a farvi due risate, se non conoscete l'episodio lo farete sicuro. Gli mandò un comandante di 50 con i suoi 50 uomini. Questi salì da lui, che era seduto sulla cima del monte, e gli disse: uomo di Dio, il re ha detto scendi. E lì rispose al comandante dei 50 uomini: se sono un uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 50. Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi 50. State attenti, vi ricordate quando non accolgono Gesù in un villaggio samaritano? Cosa dice? Cosa dicono Giacomo e Giovanni? Dice: vuoi che preghiamo che scenda un fuoco dal cielo e li divori? No. E Gesù dice: non si può fare più. Però loro l'hanno detto perché sapevano che Elia l'aveva fatto, e lì bisogna essere nati un pochetto prima. Questo è l'episodio a cui fanno riferimento gli apostoli, perché non è che lo fanno perché erano cattivi. Dice: ma se l'ha fatto Elia, Elia è venuto pure vicino a fianco a te sul Tabor alla trasfigurazione, amico tuo, se è stato assunto al cielo non è, dico, Gesù è troppo buono, e ti ha detto che non si può fare più. Allora attenti, mica è finita, eh. Allora il re mandò da lui un altro comandante di 50 con i suoi 50 uomini. Questo gli disse: uomo di Dio, ha detto il re, scendi subito. E gli rispose: se sono un uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 50. Scese il fuoco dal cielo e divorò lui i suoi 50. Allora ne manda un altro con i suoi 50 uomini. Questo terzo comandante di 50 salì e giunto cadde in ginocchio davanti a Elia, subito: fermo un attimo, aspetta. Cioè, uomo di Dio, sia preziosa ai tuoi occhi la mia vita, la vita di questi tuoi 50 servi. È sceso un fuoco di cera, divorati tu i comandanti di 50 con gli uomini. Ora la mia vita sia preziosa ai tuoi occhi. L'angelo del Signore disse a Elia: basta, va. Scendi con lui e non avere paura di lui. Si alzò e scese con lui e gli disse: così dice il Signore, poiché hai mandato messaggeri a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron, non c'è forse un dio di Israele per consultare la sua parola? Per questo dal letto su cui sei salito non scenderai, ma certamente morirai. Non cambia la sentenza, eh? Difatti morì secondo la parola del Signore pronunciata da Elia, e al suo posto divenne suo fratello Joram nell'anno secondo di Giosafat, re di Giuda, eccetera eccetera. Però quest'altro povero disgraziato, il terzo comandante, per le suppliche che ha fatto, se l'è scampata. Ecco. E poi vedete, Elia è un ciclone, quindi compie questi gesti e poi parte. Quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Elia disse a Eliseo: rimani qui, perché il Signore mi manda fino a Betel. Eliseo rispose: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. scesero a Betel. I figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro a Eliseo e gli dissero: non sai tu che oggi il Signore porterà via il tuo signore al di sopra della tua testa? Ed egli rispose: lo so anch'io, tacete. Elia gli disse: Eliseo, rimani qui perché il Signore mi manda a Gerico. Egli rispose: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. E andarono a Gerico. Va bene, saltiamo un pezzetto. 50 uomini, figli dei profeti, li seguirono e si fermarono di fronte. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque che si divisero il Giordano di qua e di là. Loro due passarono all'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: domanda cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te. Vedete, come tanti santi, Elia sapeva prima il giorno della sua morte. Questo è successo a tanti santi. Eliseo rispose: due terzi del tuo spirito siano in me. Egli soggiunse: tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà. Mentre continuavano a camminare conservando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: padre mio, carro di Israele e suoi destrieri. E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto ad Elia e tornò indietro fermandosi sulla riva del Giordano. Ecco, dopo comincerà la storia di Eliseo. Quindi la storia di Elia finisce così. Questo è un episodio molto misterioso, perché allora noi sappiamo dalla fede che prima che Gesù è morto e ha pagato la redenzione in paradiso non c'è entrato nessuno. Però l'esperienza di Elia è un pochino, c'è un punto interrogativo grande, perché viene rapito in cielo, quindi nessuno sa che fine ha fatto Elia. Sicuramente cioè, è apparso sull'Oreb, questo siamo sicuri, insieme con Mosè. Quindi dove è stato portato, che fine ha fatto, se la sua anima è staccata dal suo corpo, se sta in paradiso pure col corpo, unico, eccezione, oltre alla Madonna, che poi c'è anche un altro episodio, che è l'episodio di, oh Signore, come, non di Set, come, oh, sfugge l'episodio, che c'è un personaggio, un patriarca del libro della Genesi, oltre a Elia, che fa una figura, Enoch, altro, due versetti ci stanno. L'anima di Enoch, gradita al Signore, fu rapita in Dio, punto. Quindi ci sono alcuni punti interrogativi che non lo sappiamo. Ecco, sta di fatto che quest'uomo non ha conosciuto, questo grandissimo profeta, la morte corporale così come noi la conosciamo su questa terra. Questo è sicuro, questo qui. Quindi cosa è successo dopo che è salito su questo carro di fuoco noi non lo sappiamo, e non ci siamo a cervellà, perché lo sapremo poi quando andremo nell'altro mondo. Però l'esperienza straordinaria ed eccezionale di questo primo grandissimo profeta non è il primo in assoluto, perché abbiamo visto Samuele, però è il primo grandissimo profeta dell'Antico Testamento, diciamo così, che un po' da il là a tutto il mondo del profetismo israelitico. Bene, la prossima volta vedremo qualcosa della storia di Eliseo. Poi vi anticipo che faremo una rapida carrellata storica, perché salteremo la parte, diciamo, vi dirò qualche piccola cosa, perché molte notazioni poi le riprenderemo quando arriviamo a studiare, ad approfondire i profeti. Quindi i libri storici continuano, il primo libro dei re, il secondo libro dei re, il primo libro delle cronache, il secondo libro delle cronache. Noi passeremo direttamente ai libri dei Maccabei, perché nell'ultima parte della storia di Israele, quella dopo la conquista di Alessandro Magno, ci sono delle storie molto edificanti e anche molto utili per la nostra lettura, insomma. Poi la parte centrale sarà ripresa dai profeti, per esempio la distruzione del Tempio da Geremia, insomma, quindi li riprenderemo in un altro momento, quindi faremo qualche piccolo passaggio rapido. Ecco. E dopo, se Dio vorrà, cominceremo i libri sapienziali. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.